Capita una così, ci lamentiamo. se quello vi va bene a voi, lo stilo, senza cambiare niente, usi quello, così almeno appunto a me, quello tubo in rame, caricato, vanno molto bene con l'antenna. Non c'è problema per me, capito? Tutto. Ma non si possono comprare da qualche parte. Tanto, sì, lo tengo un po' lontano, però non ti spiego una cosa, come mi piacciono nelle radio. Mi piacciono piccolari prima di tutto. E poi mi piacciono, anche se sono grandi, l'importante è che siano piccolari. Prima di una parte. Poi mi piacciono compatte e con molto, però con molte prestazioni. Ho già visto come mi piacciono a me. Di quelle che hanno un bel discorso, un bel canale, un bel regolazione e cose, cioè, sono compatte, cioè, che non sono, anche se non sono tanto grandi e cose, però sono piccolari, più hanno prestazione, più mi piacciono. Hai capito? Però chi ci parla a me non è che non mi vanno tanto, hai capito? Io sono un po' magari mi rilascio, sì, ma quel cosa, però c'è questi tipi grandi. E voi se, secondo me è il numero uno per i baci, non per niente si chiama Royce. È bellissimo esteticamente, c'ha di tutto e di più, 40 canali, c'è qualsiasi tipo di regolazione, tre strumenti, è bellissimo esteticamente. La radio che poi piace a me, che ce l'ho, è l'LMS 200. L'LMS 200 è un veicolare di buona stampa che fa tutto. Il display disegna anche il canale 45, arriva da luna al canale 80. Tutto sul display, potenza bassa, potenza alta, banda laterali, c'è tutto. Bellissima radio anche quella, ce l'ho. E poi il Sears, l'SSB 50, che però è 23 canali, ma è ai livelli dell'MS 200, nel senso che ha molte regolazioni, va molto bene. Siamo molto, la verità devo dire, guarda, mi piacciono i piccolari, sono gusti, sono, sì, è bello vedere le cose, il funzionamento, usarle, cose, però preferirei più comprare, sì, quel supercar che c'hai tu, ma ce l'hai ancora, quel supercar grande. Certo che ce l'ho, alla grande, ho anche il Comex 3009, guarda io di baracchini ne ho, baracchini senza base, baracchini ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi di base ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho 6 base e 6 baracchini anche. E quello mi vedi quello, se tu mi mettessi a scegliere, io prenderei quello, se tu mi mettessi a scegliere, perché sono fatto così, sono fatto, capito? Mi piacciono che si, mi piacciono queste radio così e non c'è nulla da fare. Di quei baracchini stai dicendo tu? Non so. A me i baracchini piacciono, non è che non piacciono, però è sempre il sistema, capito? È sempre il sistema, l'attualità, sono piccoli, vabbè, quelli che ho io, le MS200, Sears, già sono abbastanza grandi, dai. Sono abbastanza grandi. Però piccoli sono, la 323, la 348 e basta. Guarda, sono tutti grandi. Aspetta, sto trovando questa microconnetta, la trovo bella, trovo via il nuovo, attacco nuovo, il cavo suo originale, bella, aspetta, la trovo. Prova. Ehi, molto poco. Adesso gli va a pullare la leva. Aspetta, passo la persona qua. Così grande sì. 12 anni. di piazzare così proprio all'uso. Ma è Rosalina che andate con Giambi? Dimmi, è da lavoro. No, quello è il coppia civile, è rotto, non c'è tra niente civile. Saluta, c'è Antonio Bombolo e Antonello Alessio, saluta. Buonasera a tutti e due, Alessio. Niente, ma ascolta, ma non è nota con un nome, perché io non sentivo quasi nulla, basso. Ecco, cosa c'hai? L'antenna di gomma. Guarda se senti Antonio Bombolo che è vicino a te. Vai Bombolo per Mauro. Insomma, non è che ti sento come Claudio, anche se sei vicino a me. Ma poco fa ti sentivo più basso, Forse mi sono allontanato il microfono, guarda che è stato un po' adesso. Adesso sì, meno di prima. Ascoltate, io vi lascio un attimo, perché devo andare a finire di piazza di pezzo della moto e qui adesso chiudo. E riprendo stasera più tardi, grazie. Via a capo, dai, non c'è nessun problema. Avanti, guardi, fatta vedere come sta cornetta. Thank you. faccia. Ma toccami, tocca, capito? Io provo a vedere se non vuole parlare con te. E chi? Alessio, facciamo. No, Alessio. E chi? Mamma. Mamma. Facciamo. Ma vai, un pendimi. Ho là. Forte la modulazione. la sorella di Antonello, Alessia si chiama. Alessia, non mi ricordo il nome. Alessia, ci sei? Sì. Mi senti meglio? Va bene, lo senti a Bombolino lì? Non molto. Ma questo? No, allora, sto pompando adesso, sto spingendo di radio forte. Sto spingendo di radio e sto spingendo anche di segnale. Povera Ginello. Vabbè, io sono abituato così, ma non da adesso, no? Da anni così. Oh, non mi dica, forse Giuseppe, non mi dica altro di caffè e cosa, che e poi sciucca mentalmente i piedi, non ne bevo manco per sogno, un bicchiere d'acqua fresca e basta. Ma Giuseppe, dove è là? Tutto con me c'è Alessia, la figlia di Simona. Adesso dice che entra Simona a salutarci, vediamo. No, non sono la figlia di Simona, sono la figlia di Coca-Cola. E perché, come si chiama? No, Simona è la zia. No, Simona è la ragazza di Antonello. Già lo so che è la ragazza di Antonello, già. Forse Giovanna, possibile? Sì. Come si chiama Giovanna? Ho azzeccato. Agacchiola, beh? Già va bene. E invece Giuseppe Leoncino, vieni avanti, cambio. Sì, ma mi cerchi e poi mi dici la mia zia. E invece Giovanna. Buonasera. Come stai? Sì. Già era un giorno senza sentirti. Bene, molto bene. Bene. Ma mi hai detto Antonello che è ingrassata, vero? Sì, mi sono mangiata un'anguria intera, di quelle grandi. dai, già ci vuole, dai. Uno è poco. Di uno e niente, due sono pochi e tre vanno bene, dai. E sai già che cos'è? Sì, ma schietto, si chiamerà Daniele. Perché non hai chiamato Alessio, cara? In memoria di tuo fratello. Pensavo che lo chiamavi Alessio. C'è la primogenita Alessia. Già lo so che c'è la primogenita Alessia, già va bene, non ci sono problemi, dai. Caspita, 12 anni c'è Alessia, madonna, sembra ieri, Lei cresce, volato. Il tempo è volato, ascolta, sempre là, abiti a Ossi? Sì. Hai visto? Com'è grande il mondo, eh? Ti ricordi Giovanna, eh? Via Vittorio, mia casino. Dimmi, cosa vuoi, Sobuco? Cosa vuoi, Antonè? Cosa vuoi? Lasciaci ricordare il passato con Giovanna. Riprendi Giuseppe. Sono qua, sto ascoltando. Comunque saluto l'amica Giovanna, buonasera da questa parte, Leoncino che ti super saluta con la buonasera. Sono l'amica Giovanna, ma è la sorella di Antonello, non la conosci? Ah, non ho capito, tra. Non la conosci la sorella di Antonello, Coca-Cola, Emmy. Coca-Cola? Adesso non me ne stavo ricordando, cra. Adesso ero sopra pensiero e adesso che mi hai detto nominativo, adesso me la sto ricordando. Ah, meno male te lo ricordi, ci picchio. E capa, e vabbè, che sono molto senza vederla, hai capito? Comunque vi faccio la saluto tanto e hai capito. Giovanna, te lo ricordi Giuseppe Leoncino? Non è al telefono. Cazzo, stai diventando un vecchio. Leoncino. No, fregatene, altro che vecchio, fregatene. Come dice quel proverbio, gallina vecchia fa buon brodo. Stasera lavoro, Anto? Yeah. Forse pure prima. Che mamma non so dove è andata a città, ho preso. Cappa, avanti, cra. Già va bene. Come va Giuseppe questo M600? Buono, va bene cra, ottima radio, ottimo segnale tutto, va bene, anzi è bella, veramente bella, una bella radio. Ehi, è positivo, vai. Già va bene. Quindi questa è la radio di Mario Mao, quella di console primo con l'MC100. Sembra che vada bene, e quindi non ci sono problemi, dai. No, non ce n'è problema, tra la Puglia. Ho detto, e ci arrivano 9.30 qua, hai capito? 9.30. Papà, e io vado di arrivo le oggi. Dova? Hola. Tu arrivi tra 7 e 8. 7 e 8 picchi positivi, quasi 9. Facebook non più. Sky, non ti chiamo, non ti chiamo, ma chi tu cosa dove puoi vedere cosa? Sì, Skype ce l'ho. Skype no, non l'ho mai tolto. Facebook non ce l'ho più. Facebook non mi interessa. Non mi interessa, è un mondo che non mi riguarda. Capito? Skype sì, Skype decido io con chi parlare, a chi rispondere, va bene così. Già ce l'ho, quando vuoi, non c'è problema, ti do il contatto, capito? Cappa, allora ti faccio vedere anche i miei buffetti. Vieni bella, vieni. Perfetta, si brucia tutta. Ce la vedi fare un coso, fare uno, come si direbbe, un cuccio umano fare. Oh, come mai? Perché di testa grande questa gatta. Ah, cazzo, io il gatto più grande che ho visto è quello di coso, di Nello Magatia, è quello di Gianni. Cazzo, minchia, che bestie, sembrano cani, sembra. Vedi questa, vedete, no? Vedete. Pure questa è bella manna, bella matura, se ci chiede, mica no. Ehi, cazzo, quello di Gianni è grande, eh? Pure questo è della matura, diglielo. Se ci sta vai. Ma di miau. Cosa c'è? Risponde. Ma di miau. Buona. Se ci sta vai. Già ho sentito, sì. Ha visto, Però è che secondo come la prendi non vuole toccare alcune parti, è un po' delicata, è di quelle gattine tutte delicate. Ehi, cazzo tu sei maniaco, hai detto che c'è quel culo al gatto. Ma che culo è il culo, non vuole toccare mai con la pancia, perché praticamente lì si curica. Col cazzampo in sopra, capito? Pare che sia la signora gatto. E lui che andato a toccarla sopra e da un po'. Sì, mi sarà vista un giorno. sindaco di Broaghemi. Chi c'è da andare giù? Guarda che sono cani imbrogliati di Biademi. Anche a Corona così a tu. Che bello. Ciao, a dopo, dai, ciao. Ciao. Ciao.